Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera a Maurizio Calzafara, buonasera a Michele Tosoni in regia e buonasera facsimile, che non sbagliamo, facsimile da direttamente da Modena. Buonasera ragazzi. Buonasera. State bene, avete fatto buon viaggio? Sì. Possiete panchettare, ho visto una chitarra elettrica, un basso elettrico e una chitarra acustica. Ragazzi, io li ho sentiti prima che provavano e il suono rock viene fuori nell'aria. Buonasera, quindi 22.08 in perfetta diretta. È bello suonare dal vivo. La band si chiama Facsimile ed è nata un po' di anni fa, non veramente nel 2011, un po' di tempo fa, vero? Ci presentiamo Enrico, Mario ed Alberto. C'è Alessandra che è rimasta a casa praticamente. Annalisa, che è rimasta a casa, sì. Che è una batterista donna, è una cosa abbastanza rara nelle band di oggigiorno. Perché lei vuole sempre venire con la batteria dietro, quindi non ci stava nello studio. Esattamente. Allora, com'è nato il discorso? Come si è sviluppato? Chi parla? Parla Alberto. Alberto. È nato quando eravamo giovani. Sì, quindi a scuola praticamente. Sì, spesso... Come ti dicevo, ci sono i ragazzi che si trovano e cominciano a approcciarsi alla musica, fanno un gruppetto, poi magari si scioglie, ne fanno un altro, e noi siamo sempre rimasti quelli. E quindi è per quello che siamo insieme dal 2002 circa. Prime esperienze, abbiamo fatto Sanremo Rock che eravamo giovanissimi. Come mai avete fatto Sanremo Rock? Com'è stato l'idea e la possibilità di entrare in Sanremo Rock? Uno dei pochi concorsi che conoscevamo al momento. L'avete mandato un demo, qualcosa? Sì. Poi penso siamo arrivati alle semifinali regionali, un qualcosa del genere. Quindi già dei bei risultati da lì. Poi dopo siamo andati avanti. Siete andati avanti, avete proseguito il percorso. Non vi siete fermati come spesso capita. Vero? Certo. Perché la volontà di far musica è più forte che mai, o no? Non è così? Sì. Nel nostro paese c'è poco altro. Nel vostro paese c'è poco. Perché siamo in pochissimi abitanti. Poche centinaia. Ma Modena è un bastardo posto. Modena sì. Piccola città bastardo posto. Noi abitiamo a Riccò, che sta sulle colline. Quindi sono 600 anime che purtroppo fanno poco. C'è il corpo bandistico, c'è la chiesa. Noi abbiamo imparato musica nel corpo bandistico. Poi ci siamo trovati nel salotto di casa e la domenica pomeriggio cominciamo a suonare un po'. E successivamente è nata l'idea del gruppo, perché ci mancava la batterista che si è aggiunta proprio... Annalisa, quindi si è aggiunta dopo. Quindi nel salotto di casa, non nel garage. No, i panchettari. No, momento. Mario dice qualcosa d'altro. Allora, adesso intervengo io. La prima volta che abbiamo provato eravamo io e te, Enrico, nella stalla. Ah, bello. Attenzione, per non disturbare nessuno, proprio isolati al massimo. Sì, è vero, nella stalla di casa tua. Sì, esatto. Ma la stalla è un'ottima acustica però, Io non sapevo ancora suonare il basso, Va bene, hai provato, hai imparato dopo. Non l'ho ancora comprato. Hai imparato dopo, in ogni caso. Sì, bene, quindi il primo approccio è stato quello e poi si è sviluppato il discorso. Esatto. Nell'ambito del punk, nella voglia del punk, come mai nell'ambito del più punk? Più che punk è... Punk melodico. Rock melodico. Sì. Ultimamente, sai, è difficile sempre definirsi, adesso certo. Tirano fuori, inventano un genere al giorno. Noi abbiamo trovato questo genere un po' che ruotiamo intorno al rock power pop. Perché, insomma, il punk c'è perché dura 2 minuti e 30, 2 minuti e 35, 3 minuti al massimo i pezzi, sì, forse quello. È una scelta anche forse per non so, per non stancare, per racchiudere tutto in poco e dare il gusto e dare subito di uno finisce il pezzo e poi dice dai che me lo riascolto. Bene, avete inciso un EP e un album precedente. L'album di qualche tempo fa come si chiama? Come si intitolava? C'è un album del 2004 che si chiama Homo Faber. È un po', vuole racchiudere tutto l'uomo artefice del suo destino. C'entra qualcosa di Andrea o no? No, niente. Purtroppo no. Purtroppo no, vabbè. Okay. Va bene, allora hai detto che cioè, praticamente concentra le idee del 2004. Sì, ed era un disco più alternativo, più sul rock alternativo. Poi nel 2006 ci siamo sempre restrinti come numero di pezzi, ci hanno consigliato di fare dei singoli. Allora abbiamo fatto un singolo di 3 pezzi, che dal titolo Cuore di Legno. E un singolo, successivamente, che si chiamava Heaven, soltanto un pezzo. E poi dopo fino ad arrivare a questo Meglio Nudi del 2010. Quindi recentissimo, quello abbastanza recente. Meglio Nudi che un EP di 7 pezzi praticamente. Sette pezzi. Allora cominciamo, come si dice, a aprire la nostra finestra e presentiamo un pezzo, la traccia numero 1 che abbiamo scelto. Va bene. La vuoi presentare? La traccia numero 1 è Tu Du Du. Perfetto. Yeah, I'm going. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, sicuramente è un pop, ma un pop condito da punk, qua secondo me è un po' rock energico, perché deve svegliare le persone. Deve far muovere la gente. Esatto. È quello il discorso. Per quello si è messo come in testa agli altri sei pezzi, no? Sì, è il più corto, è un è po' una presentazioncina, via. Esatto. Anche nel ha dato una bella scarica di adrenalina. Sì, anche il significato stesso del pezzo, tu du du, è gioioso, giocoso, e vuole dire con leggerezza, me ne frego di tutto. Ecco. Cioè, me ne frego, ma tra virgolette. Sempre ecco. Tra virgolette. Meglio nudi è il titolo del vostro IP, e c'è un significato, meglio nudi, cioè... indipendenti, veri praticamente, al di là delle costruzioni che si possono fare, reali. Sì, beh, a livello musicale, indipendenti sì. Chiaro sì. Che se ci fosse la major che ti segue, noi però farebbe non più che piacere. Sono d'accordo con te, però la major potrebbe portare un vantaggio o uno svantaggio, quello è il discorso. Vantaggio dal punto di vista, questione di punto di vista, come sempre, perché dal punto di vista della creatività, sicuramente la major ci mette all'impronta, appunto, assolutamente non ti dà la libertà di fare quello che vuoi. Quando sei indipendente, fai quel che vuoi, però non hai le pezze al culo, se si può dire, sì. Cioè non hai un aggancio, non hai una forza, non lo fai di mestiere, e quindi non è quasi più arte, tra virgolette. Però se comunque riesci a mantenere un'impronta artistica al tuo lavoro, il resto viene da sé. Se sai far bene il tuo lavoro, chiaramente, certo, anche la major comunque punta su di te come artista e non solo come tecnico, tra virgolette, di musica che viene suonata, tu devi interpretare, finita lì. Ma le major di adesso non puntano sugli artisti emergenti, perché ci sono i contenitori, ma puntano sui prodotti della prodotti TV che esiste prodotti. Già e quindi quello è un male, secondo me. Ma noi ci siamo noi, Beh, ci siamo noi per e quello. Siamo apposta. appunto. No, e ora ritorniamo al discorso. Questo abbiamo parlato dal punto di vista musicale, dal punto di vista proprio letterario, dei testi, meglio nudi, perché vuole mettere alla berlina, vuole dire... Noi siamo fatti così, praticamente. Bravo. Hai colto perfettamente nel segno il significato di quello che vogliamo fare. Essere se stessi. Proprio nella vita, nel sociale, in tutto quello che si fa. Perché se andiamo a vedere la musica, come dicevi te, le measure e tutto... Noi non ci pensiamo neanche, nel senso l'importante è divertirsi e fare più che si può. Esatto, divertirsi suonando in continuazione. Poi le cose vengono da sé dopo. Certo, ma suonando in continuazione come voi fate, come farete fra qualche secondo anche qua. Con cosa cominciamo a proposito di suonare in continuazione? Mario, cosa hai deciso? Mario. Ma io non ho deciso niente comunque. Potremmo fare un qualche pezzo che, non lo so, esce un attimo dal nostro album, qualcosina di interessante, inedito per quanto riguarda questa sera. Esatto, sicuramente. Ok. Che ci piace suonare live, diciamo. Ah, certo. Che cosa? Il titolo del pezzo? Facoltà. Benissimo. Vivere tra la gente, scopro questa realtà. Le opinioni che ho in mente non sono come in città. Che nasca e muoia il mistero più grande, ma in mezzo cosa si fa? Ognuno con la sua missione in mano scopre la sua identità. Ma a che ora ti svegli e parti, questo non si sa. Manca la felicità, manca la felicità, manca la felicità, manca la spontaneità. Ed apro gli occhi su un mondo più grande, fatto di semplicità, di volontà, di forza, fede, speranza, una nuova città. Il vecchio mondo non ha più storia, è solo banalità. Cambia vestiti ogni mattina, è moda, sigaretta e dove si va. Quanto è importante rimanere in voga, ma cosa ti resterà? manca la felicità, manca la felicità, manca la felicità, manca la spontaneità. E giro e cerco e scopre, giro e cerco e trovo, e giro e cerco e scopre, giro e cerco e trovo che, giro e cerco e scopre, giro e cerco e trovo, e giro e cerco e scopre, giro e cerco e trovo che manca la felicità, manca la felicità, manca la felicità, manca la spontaneità. Manca la felicità, manca la felicità, manca la felicità, manca la spontaneità. Bluradio Veneto, Bluradio. Rock Wave, l'onda del rock. Pezzo divertente, un pezzo accattivante che fa svegliare la gente che sta ascoltando in diretta 22-21 di questo mercoledì. Io ho spulciato nelle vostre mini biografie che avete mandato su internet praticamente, e tu hai scritto, Alberto, che oltre sei chiaramente la voce, il vocalista e suona la chitarra, ami allevare insetti, tarantole o cose di questo genere. Ah, come ho scritto quello lì? Sì, hai scritto così. Allora, vabbè, tanto per evitare arresti o cose esattamente varie, animali non pericolosi. Animali non pericolosi. Non stiamo a specificare. No, all'apparenza, no? All'apparenza, no. E sì, ho sempre avuto questa passione fin da piccolino, che è di allevare gli insetti anche ai nostri locali. Mm. Poi l'ho allargata in quanto... In camera mia proprio, c'ho una decina di... Delle teche praticamente. Delle teche di... Adesso ne ho 13-14, però sì, sulla decina, 10-11 ragni, che sono tarantole sudamericane, quindi insomma tutte colorate, diverse. E oltre a queste allevo anche delle blatte, degli scarafaggi. Ne ho tre specie, sono che appunto mi servono come cibo per le tarantole. Ah, perfetto. E oltre a queste ancora c'ho insetti stecco vari, diversi... Potevo portartene uno come... No, assolutamente. No, io rispetto a decisamente questo tuo hobby, ma sono, proteggono le chitarre poi questi insetti, sì, esattamente, specie di protezione praticamente. Esatto. Nessuno Benissimo. Si attenta ad entrare in saletta. E tu Mario, hai un altro, poi parliamo con Enrico. Mario, tu hai un altro hobby, Dobby, hai basket, musica e pallavolo, e non hai hobby strani praticamente, non li hai citati qua. Diciamo che il basket lo possiamo tirare via, in quanto mi sono rotto il ginocchio giusto un mese fa. Ah, ho capito. Giocando a basket, quindi. Okay, ho capito, quindi era un hobby il basket. Sì, ho giocato sempre al basket da quando ero piccolino. Ed effettistica varia, in che senso effettistica varia? Questa è l'effettistica varia, rientra nell'ambito musicale perché fondamentalmente ognuno di noi ascolta dei generi di musica che non c'entrano niente l'uno con l'altro, però ci piace un sacco, diciamo, mescolare un po', mettere qualche riferimento a qualcosa di ascoltato, di preferito. Per esempio, quello che ascolto io magari non può piacere a Enrico Alberto, o comunque l'ascolto, ma qualche cosa non è veramente concordante con quello che è la nostra linea, ma comunque diciamo che in mezzo ci viene sempre messo qualcosina che esce proprio da noi, da quello che da ognuno di noi, che deriva da dei generi musicali che non sono concordanti. Quindi l'effettistica vuol dire che tramite effetti vari cerco di mescolare, comunque di mettere dentro anche piccole cose che ci entrano con il pezzo e che danno una nota, cioè un'impronta significativa di quello che sono io, diciamo. Poi a proposito di Enrico, ha una corposa biografia, ti hanno scritto un sacco di cose, non so se l'hai scritto perché le ha fatte lui, è molto corposa biografia, ma perché lì è più in ordine cronologico delle mie esperienze, ne hai fatte tante esperienze interessanti musicalmente parlando, parlo sempre musicalmente parlando. Ho visto che ami particolarmente i Nirvana, il grunge, i Soundgarden e altri gruppi, ma di questo genere, i vostri amori musicali, ne parleremo verso il 23, vi farò una cosa un po' particolare, poi saprete. Il quizzone. Chissà cosa ho scritto, no? Non me lo ricordo neanche. È scritto un po' di cose interessanti, anche System of Down. System of Down, un gruppo corposo, interessante, tosto. Che si discosta completamente da quello che abbiamo fatto. Si discosta lentamente. È stato il primo concerto. Sei il bassista della band, una band a 4, il bassista è fondamentale. Anche in una band a 3, anche a 2. Il bassista è sempre fondamentale. È quello che quando lo togli, comunque, diciamo, soliti luoghi comuni. Non sono d'accordo, è discutibile, dai. Se lui comincia a alzare le basse, per forza. Ho capito. No, scherzi a parte, il bassista, cioè la ritmica è fondamentale. Cioè, basse e batteria fanno, diciamo, il 60% di quello che è la musica di un gruppo. E poi l'importante è che la vostra è una famiglia molto unita, un fratello e una sorella e due fratelli praticamente. Esatto. Quindi una comunione di intenti totale. No, ricordami che ho scritto perché non me lo ricordo neanch'io. Dimmi, no, hai scritto, scritto? No, hai scritto solamente dei tuoi amori musicali, che ami, vediamo, sì, hai scritto anche che ami lo sport, gli amici, la musica, niente di straordinario, anzi. Sì, non allevo i setti, perciò. Non importa, ognuno ha un proprio hobby, chiaramente. Benissimo, 22-26, abbiamo un po' esplorato, ma io voglio ancora esplorare di più. Adesso sentiamo un pezzo da disco, la traccia numero 2, ve la ricordate il titolo? Sì? Sì. Come un campo. Ok. Forse lo sa, magari non lo sa, forse lo sa, ho scelto di vivere, forse lo sa, magari non lo sa, forse lo sa, ho scelto di credere, forse lo sa, magari non lo sa, forse lo sa, ho scelto di piangere, forse lo sa, magari non lo sa, forse lo sa, e non mi basta il tempo per spiegare questo sentimento intenso che ho provato tutto questo tempo perso a ricercare qualche cosa di perfetto a immaginare. Sono stato come un campo che ha passato. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, stiamo conversando con i Facsimile, stiamo presentando Meglio Nudi, che è il loro nuovo EP, uscito da qualche mese. E a me interessa questo, Mario, questo assolo che tu hai fatto nel pezzo che abbiamo appena ascoltato, qualche minuto fa, appena finito. Com'è l'idea di questo assolo? Mi dicevano i tuoi due colleghi, nonché amici, nonché parenti quasi, possiamo dire uno parente, assolutamente parente, che c'è piena libertà nella band di gestire, di allargare. Se tu hai voglia di fare un assolo, lo metti dentro e basta. Sì. Ci si trova, si prova, poi magari sul momento si fa qualcosa che, diciamo, veramente esce da te. E poi si vede se funziona, se gira, se ci sta, bene. E si continua a lavorare su questo. E come l'hai catturato questo assolo in quel momento? Questa è una bella domanda, perché vengono così, ci sono momenti in cui non c'è niente da fare, passi delle giornate e non riesci a trovare quello che vuoi, e poi magari ti metti lì 5-10 minuti, ascolti il pezzo 3-4 volte e poi dopo viene fuori l'assolo da solo. È andata bene, secondo me, è un pezzo che sì, cioè l'assolo stava bene dentro all'insieme del pezzo, messo nel momento giusto verso la fine per dare un certo risalto, e poi chiaramente avete chiuso il cerchio, non è così, Enrico? Se no, Enrico, Alberto, scusa. Sì, no, perfettamente, perché tante volte ti dico come nascono i pezzi. Io butto giù il testo e faccio la parte musicale, quella grezza. Cioè i testi li scrivi tutti te? Sì. E la base viene portata al gruppo, solo che questa base, se non venisse arricchita da questi elementi, che può essere la solo o il riff di chitarra in più o l'idea geniale che ci può essere all'inizio e alla fine di un pezzo, me ne vengono in mente tanti anche sì, proprio Meglio Nudi, e non sarebbero quei pezzi unici che sono, con una batteria arrangiata come deve essere arrangiata, un basso, c'è la massima libertà da parte di tutti, che riescono poi a esprimere il loro e a rendere i pezzi non monotoni, perché se li facesse uno solo il pezzo in sé potrebbe risultare quasi monotono. Quindi è un lavoro di gruppo al 100%. Enrico, che contributo dai, Annalisa, che contributo danno alla band? Io non lo dico, perché sono quello che rompe più le scatole di tutti, perché tutte le volte che viene fuori qualcosa di nuovo dico no, questo no. Sei un perfezionista tu? Non sono un perfezionista, però cerco di capire l'arrangiamento finale un po' di tutte le cose. Ma poi, chi tira le fila poi il discorso alla fine? Tutti quanti tirate le fila? Ah beh sì, le file dobbiamo essere d'accordo tutti, perché sì, sennò infatti se non funziona. Più delle volte ci si scontra di continuo durante il pezzo, no taglia questo, ma no dai, do un colpo là, no no non ci sta, io lo faccio, allora fallo. Io Alberto, visto che mio fratello pago pegno, perché tutte le volte che propongo un pezzo, no non va bene, lui dice sempre no. Capita la volta che lo proviamo ed è bellissimo, invece magari il pezzo che in acustico fatto da me viene bene, poi col gruppo può essere che non esca fuori, qualche volta è capitato. Ho capito. E poi vi è dato anche una mano, possiamo chiamarlo fonico, come possiamo chiamarlo? Lo chiamiamo produttore. Un produttore, dai, scusami. Mi date una mano per chiudere il discorso. Come si chiama questo? Se ci ascolta, lo ringraziamo anche, Daniel Ursini. Grazie, Daniel. Prima di tutto è un amico che abbiamo conosciuto in un concorso, Rock Target Italia, così, eravamo proprio... Sì, così. Come si aveva una band anche lui. Aveva una band anche eravamo lui. Rivali. Ci è piaciuto subito, poi dopo siamo rimasti in contatto, e essendoci questa sinergia tra i generi, sia nostro che suo, poi dopo da cosa nasce cosa, e lui ha messo su uno studio e è molto bravo, ci troviamo bene. Vi ha ospitato? Avete ci ha ospitati, e quando hai l'opportunità di avere il tempo di fare quello che vuoi, di provare un suono piuttosto che un altro, allora vengono fuori anche le cose di cui sei soddisfatto. Non c'è pesantezza, non c'è pressione, quello è importante. Esatto. Perché la pressione qualche volta c'è il tempo, perché di solito capita così quando innanzitutto ci sono certi budget da rispettare, e quindi i tempi sono quelli, si deve correre e il pezzo deve essere già tutto pronto, ma non è mica semplice, cioè c'è un po' di emozione, qualche volta capita. È il pegno che abbiamo pagato negli album precedenti, dove da 10 pezzi poi siamo passati a fare il singolo spendendo le stesse cifre. Chiaro. Perché devi stare lì a arrangiare, a perderci più tempo, a farlo meglio. E invece quest'ultimo disco ci ha permesso proprio di lavorare liberamente. Comunque lavorare nell'arco di mesi, certo. Con calma. 5-6 mesi di lavorazione con calma ha permesso comunque di... E l'avete provato fuori prima il disco nuovo? L'avete fatto sentire alla gente che vi ascoltava, oppure sono cose venute fuori solo dallo studio? Beh sì, alcuni pezzi man mano, i pezzi comunque vengono costruiti uno alla volta, quindi nei vari concerti in cui tu vai fuori e ti fai sentire dalla gente, porti fuori ogni singolo pezzo. Poi sono state decise, c'è stata fatta una cernita, gli hanno detto facciamone 6, 7 e poi si è riuscito a farne 7. Certo, certo. Ha portato poi il risultato finale. Cioè, secondo me è un bel risultato, fatto bene anche dal punto di vista degli arrangiamenti, si sente è arrangiato bene, anche se è un disco... Cioè, è un po' diverso dal disco precedente, siamo d'accordo. Avete scelto un'altra via, meno estremistica musicalmente parlando, forse più non dico più accattivante, ma più melodica. Avete scelto un po' di melodia. Abbiamo cercato forse anche di piacere un po' di più, però abbiamo scelto il meglio che avevamo in quel momento, anche grazie proprio a Daniel, che ha dato un aiuto anche lei. Già. Sì, anche la sua impronta, certo, nell'arrangiare, certo, nel dare una mano a completare. Che ha dato dei consigli anche lui. Nel guidarci, certo. sì, sicuramente. Ok, sentiamo un altro pezzo adesso, 22:36, che cosa ci fate ascoltare? Visto che il disco ce lo sentiamo sì, un diretto, po' alla volta, tutto quanto. Noi adesso facciamo un pezzo fuori dal disco, un pezzo nuovo che si chiama Aua. Ok. Sì lo so, io sì lo so. Esser grandi vuol dire no. Dopo tutte le fatiche, dopo fantasie finite, non è facile accettare che questo mondo non ammette clown. Quel che faccio non è ammissibile, ma che mi importa se vedo te, vedo te, vedo te, vedo te, vedo te, vedo te. Sembrato semplice farsi amare se si pensa a sé. Chiusi, pieni e falsi non si può abbracciare qualcun altro, no. Ed è per questo che mi rendo clown e gioco come non si potrebbe mai. E spesso in tanti non comprendono, ma che mi importa se vedo te, vedo te, vedo te, ah, vedo te, vedo te, vedo te, ah, non si può, non si può, non mi importa, io ci scherzo, non mi va, non mi va di buttare tutto all'aria. Non ci sto, non ci sto. Io ora vivo ma non guardo a cosa va o a chi c'è, a che si aspettano da me. Perché mi va, perché lo so, io scherzo, rido e me ne frego se vedo te, vedo te, vedo te, ah, vedo te, vedo te, vedo te, ah, vedo te, vedo te, vedo te, ah, vedo te, vedo te, vedo te, Radio Rock Wave, l'onda del rock. Enrico D'Alberto Busi, Mario Bernabei, facsimile. Benissimo, manca l'analista, però è, cioè, è nei nostri pensieri, possiamo dire questo. Dovrebbe essere anche in ascolto. Benissimo, la salutiamo. Ok, abbiamo sentito un altro pezzo divertente che non fa parte del disco. È una una new entry, una cosa nuova che avete appena scritto praticamente. Sì, cosa sì, dici? Speriamo a breve poi di poterle anche pubblicare, registrare, pubblicare. Adesso vedremo con l'anno nuovo. Speriamo che il 2012 ci porti di nuovo in studio. Bene, bene. Per fare qualcosa. A proposito di questo, del 2010, quindi la pubblicazione di Meglio Nudi, sono state cose molto interessanti. Avete partecipato al MEI, al meeting di etichette indipendenti, che è una manifestazione molto importante. Sì, Come mai siete riusciti ad arrivare al MEI? Ci siamo presentati in uno stand, abbiamo proprio messo su uno stand con più gruppi che fanno parte di un movimento Mob Factory, c'è anche il sito mob10.net, che racchiude adesso quattro progetti musicali di quattro band anche proprio differenti tra loro come generi. Il Mob sta a significare music or business. Ah, ho capito. È un po' una sfida, insomma, ci siamo presentati per farci pubblicità, per farci vedere. E poi è servito, perché è poi servito, dal MEI sono arrivate diverse tante altre cose. Altre cose. Poi Michel Pergolani vi ha sentito e vi ha trasmesso la Demo Rai, che è un programma famosissimo della Rai, che proprio l'opportunità alle band emergenti farsi sentire, anche noi chiaramente facciamo, la Rai fa questo discorso qua, quindi siete arrivati anche a Demo Rai praticamente. Sì, sì, hanno trasmesso due pezzi nel corso della scorsa stagione e ci hanno anche poi ritrasmessi tra i migliori dell'anno praticamente, sì, è una cosa molto positiva. E poi da questo disco cosa è nato? Anche un video, mi dicevi. Sì, è nato un video del pezzo che sentiremo, credo il prossimo pezzo che sentiremo, e il video si chiama Caramella. Caramella è un pezzo molto pezzo bello. Caramella e... Decisamente. Com'è Caramella? Racconta. È una metafora. È una metafora praticamente. Dimmi. Io? Sì, se vuoi parlare te. O sono Mario? No, nel senso che uno deve un po' capirla questa metafora. Non so se hai avuto modo di ascoltare a modo il pezzo e non so se hai inteso la metafora. Maurizio, dimmi. Certe cose. Adesso da intervistato divento intervistatore. Sì, ho capito. Sì, tar rosso. Esatto. No, vabbè, senza caramella, nel senso si parla di ragazzi. Sì, di donne. Esattamente, sì. Esatto. Quindi si dice c'è chi ne ha una e gli va bene quella, chi ne vuole provare. Cerca di sfogliarla. Esatto. Di sfogliarla. Di scartarne. Sfogliare, come un petto di rose, scarta la caramella. Oppure chi va su altri generi di dolciumi, tra virgolette. Ho capito. Senza intendere niente, eh? No, assolutamente no. Ci sono tripli significati, ma senza significati buoni, senza niente di male. Ma per entrare nell'ottica delle idee, per vedere fare le cose come sono praticamente. Caramella è una metafora, certo. Esatto. Ma altri pezzi possono rappresentare delle metafore? Certo. Alberto, cosa dici? Certo, tutti. Poi questo pezzo Caramella vuole lodare sia chi se ne coltiva una, chi se ne piglia solo una di caramella, e magari poi anche l'operato di chi è in grado di mangiarsi tante caramelle. Esattamente. E... sì, abbiamo... sì, sì. Poi nello specifico anche tutti gli altri pezzi raccontano proprio l'idea, il Meglio Nudi sta a significare, cioè c'è, in ogni pezzo c'è un qualcosa, un frammento della vita di tutti i giorni nel quale proprio si è nudi, in senso metaforico. Cioè chiaramente non volete... non ci siano proprio delle barriere, così deve essere il discorso, cioè semplici ma nudi, cioè come siete praticamente, senza tanti sì, giri di anche discorsi. Contro quello che vediamo in giro, certo, quello certo. Che si vede a livello di insomma senza tante maschere. Senza tante maschere. Difatti tu nella biografia mi pare tu abbia scritto una frase, fai te stesso una macchina da guerra, nel senso positivo del termine, non violenta, non una macchina violenta da guerra, no. Hai scritto. Sì. Cioè, per tentare di andare dentro alle cose. È un po' un'esortazione al darsi da fare. Io ritengo, cioè, la volontà per me è è un caposaldo, muoversi, quindi darsi da fare. Ok, allora adesso sentiamo come scaletta proprio questa. Traccia numero 3, siamo arrivati alla traccia numero 3. Sì, dai, proviamo a sentire questa. Proviamo a sentirla. Sentiamola allora. C'è chi ne ha 3, chi ne ha 2, chi se ne mangia 6 e poi ne scatta 3, chi se ne tiene 5. Che non le ha meritate. E lo sai che più giri e più ne troverai. E proverai tanti gusti nuovi. Proverai. Lo sai. Lo poter mangiare, ma nella mia vita io vorrei fosse tutto speciale. E una caramella sola io vorrei poter mangiare. C'è chi si mette bene per ben apparire, perché tutte quante se le vuol mangiare. Chi non le ha mai mangiate, non le vuol provare, perché ha un po' paura, perché non ha fame. Questo ragionare è giusto, e lo sai, che se le mangi dopo cambierai, fai ciò che vuoi, anche se fidarti mai potrai, e cambierai, cambierai. Ma nella mia vita io vorrei fosse tutto speciale, e una caramella sola io vorrei poter mangiare, ma nella mia vita non può essere tutto banale, e una caramella sola forse non mi può bastare. Potrà bastare. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, da questo pezzo abbiamo detto già precedentemente c'è un video. Chi l'ha girato il video? Ti ricordi? Girato dei ragazzi videoteppisti. Si chiamano videoteppisti. Mm. I ragazzi che hanno girato questo video. Però hanno... sono, li reputiamo, cioè sono tutti degli effetti dei professionisti. Sì, certo, e certo. Hanno fatto un ottimo lavoro. Il regista, ricordiamo, Lillo. Lillo e Zanna. Zanna che ha la camera. Che e l'idea com'è venuta? A loro o a voi? L'idea di base è nostra e poi dopo chiaramente loro è stato ingegno loro poi concretizzare le nostre idee, perché magari noi diciamo in questa ripresa facciamo entrare 10 persone e loro hanno detto no, entrate in 3 perché sennò viene uno schifo, ecco. E sono riusciti bene a modellare la nostra idea e a renderla efficace. Il video lo potete vedere anche da YouTube, dal nostro sito. Citiamo il vostro sito, visto che ci siamo. Il nostro sito è facsimile.net. Comunque basta scrivere su Google facsimile e copiateci qualsiasi parola e veniamo fuori solo noi, perché il nome è appunto un nome unico. Esattamente, sì. No. Io non ho mai sentito in Italia, cioè sicuramente in Italia voi vi chiamate così. Cioè, ci sono tanti magari modi diversi di scrivere, però, facsimile, il nostro è così. F-U-X-imile. Quindi si scrive così e sicuramente siete solo voi che l'avete. Solo noi. Al 100%. E avete giocato anche su questo, ho giocato nel senso positivo del termine. Sì, sì, sì. Per non avere concomitanze con altri. È esattamente così, no? Benissimo. Sì, abbiamo parlato del video, abbiamo parlato poi, oltre avete partecipato a Notte Rosa, a Lido delle Nazioni. La Notte Rosa, che cos'è? Un avvenimento estivo? Si suona praticamente tutta la Riviera Romagnola. Avvenimento commerciale per la Riviera Romagnola, ma si suona. Noi ci siamo divertiti un sacco, però, perché ti trovi suonando nel backstage con altri. Suonato in playback? Come mai? Half playback, perché... io ho cantato. Esatto. Anche io. Perché sì, lì sì, ti costringono a Insomma, fare... cioè, avete tre minuti. Mm. Sì, e via. Quindi e via. Porti la base e canti al massimo. Però, se ce l'hai. Però, almeno... avete però partecipato. Avevi una piazza di gente ed piena. Era favoloso. Sì. È proprio una bella esperienza. Era molto positiva questa, al di là del playback, insomma, praticamente. Esatto. E purtroppo sono le esigenze commerciali qualche volta, o no? Sì, sì, però sono comunque esperienze divertenti perché anche nel backstage ci si diverte, altri gruppi... Conosci gli artisti, entri in contatto comunque con diverse realtà. Esattamente, entri in contatto con realtà, con la possibilità di avere altri contatti. Certo, esatto. Di suonare in altri posti, chiaramente, o no? Sì, l'idea è quella, poi chiaramente il tempo tecnico dietro al palco era molto ristretto. Comunque. Soprattutto perché abbiamo fatto solo del macello con gli amici freakout esatto. di Modena, anche loro. Infatti, perché conosci gli artisti sul palco e nel backstage, è lì la parte più interessante. Esattamente. E a proposito di conoscere, cioè parlavate al microfono spento, che adesso vi siete un po' fermati perché state cercando di fare altri pezzi, eccetera. Ma è difficile suonare dal vivo pezzi vostri, assolutamente vostri. Sì, sì. Sì, vero, è tanto difficile perché molti spesso e volentieri si dedicano alle cover, ai tribute band, o non è così? Sì, diciamo che all'inizio che noi abbiamo, diciamo che è stata una partenza, non so, la percentuale di pezzi nostri rispetto a cover è stata all'inizio un pochino ridotta. Poi pian piano abbiamo sempre più spinto verso il 50-50, poi, e poi 60-40, il 60-70. E adesso praticamente facciamo solo pezzi nostri, cerchiamo sempre di spingere anche dei pezzi inediti comunque. Fate bene. Perché cioè, proviamo, diciamo, quando vediamo che il pubblico reagisce, comunque c'è un ritorno, allora non c'è momento migliore che proporre qualcosa e vedere un po' come la gente, diciamo... reagisce a questo. Io so che è difficile, però si poi deve sì, andare avanti. Tante volte... puoi andare anche in posti dove richiedono magari non so che cover fate eccetera, ma lì in questo caso siamo tagliati fuori. Esatto, in questo momento noi diciamo sinceramente noi proviamo, cioè cerchiamo di fare tutti i pezzi nostri, poi proponiamo i nostri CD eccetera, se piace bene, se non piace. Quindi avete un bacchetto anche voi, vendete là, si possono trovare là i sì, CD. Sì, sì, sì. Sicuramente in ogni nostro l'unico modo per vendere i dischi live, dicono no, così. No, no. No, abbiamo... no, dal punto di vista fisico, fisico. Ci siamo adoperati anche se è servito in parte no, dipende dai punti vendita. Abbiamo lasciato il disco in alcuni punti vendita tra Modena, Reggio Emilia e Bologna. Ci sono dei negozi, si possono trovare. So. Certo, e poi mandando insomma comunicazione tramite internet, la gente se l'è andato anche a pescare lì. Oltre a questo abbiamo una distribuzione digitale con Believe, Zimbalam. E i principali store digitali dovrebbero avere il nostro disco. Ho capito, cioè se uno lo vuole fisicamente deve venire ai vostri concerti no. Concerti oppure punto vendita appunto, esattamente, tipo, lo può nella prenotare zona. Esattamente, nella zona. Qua a Padova niente purtroppo, mai, fra un po' di speriamo, tempo magari live. Esatto, magari 22:53 abbiamo un altro tempo sicuramente un altro pezzo live. Che cosa sentiamo adesso? Che si fa coccodrillo? Facciamo coccodrillo. Sì, facciamo coccodrillo. Ok, proviamo. Viviamo in un mondo di latta. Gli impegni ci fan perdere la nostra strada. Ma la vita non dovrebbe andare così. Noi dovremmo seguire quello che ci fa liberi. Liberi, sì. Non me dà aiuto questo mondo che ho. Qual è il contributo che io do? Cresca, aumentano le responsabilità. Io chiedo aiuto. Voglio il tempo che ho. Mm. nostri giorni scivolano avanti nel tempo e non mi pento di usare al meglio la vita per le cose che sento. Ma l'ostacolo che ho è proprio questo contesto. Qualcuno qualcosa mi trattiene dentro al cesto e consuma il mio tempo. Non me d'aiuto questo mondo che ho, quale contributo che io do, cresca aumenta le responsabilità, io chiedo aiuto, voglio il tempo che ho. Nella mia vita non voglio età, meglio felice che in prosperità. La nostra vita non si attacca qua. Non me d'aiuto questo mondo che ho, qual è il contributo che io do, cresca aumentano le responsabilità, io chiedo aiuto, voglio il tempo che ho, non voglio aiuto, prendo il tempo che ho. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, Alberto, è capitato anche ad altri di rompere una corda dal vivo. Non ti dirò che a me non mi è capitato mai. Una volta quando ero più giovane è stato un disastro. È capitato, però adesso provvedo subito. Vabbè, ma è una cosa che può capitare in una radio, e mentre si suona dal vivo è una cosa molto bella, anche vuol dire sia assolutamente in diretta. Bravo, esatto. Sarà l'umidità che abbiamo creato. Può darsi. E una cosa volevo chiedere a Mario. A me sembrava un po' rumorista sto pezzo, nel senso che c'era questo suono un po' rumorista della tua chitarra elettrica, un pezzo molto ipnotico, un po' strano, un po' particolare, molto interessante, una nuova via dei facsimile oppure no? Ma no, in realtà ci sono altri pezzi che anche addirittura vecchi, tipo Soren. Qualcosa con queste sonorità un pochino, sì, che ti prendono, sì, ti portano, psichedeliche. Esatto. Molto psichedeliche. Questo era un pezzo, sì. Anche se c'era poi le due voci di Alberto ed Enrico assieme che davano una linea pseudomelodica, era abbastanza psichedelico il pezzo, lisergico, quel continuo suono che facevi te con la elettrica, mm-hmm. Ricordava certe cose di indipendenti americani, secondo me. Sì, potrebbe essere, ma lì sì, non è l'unico pezzo che abbiamo fatto con queste, diciamo, sonorità. Ci sono altri pezzi, tipo diciamo anche l'ultimo pezzo di questo CD, dell'ultimo CD che abbiamo fatto, che diciamo che in realtà quando lo facciamo live lo cambiate. Esatto, l'intramezzo viene un attimo staccato un po' e diciamo diamo libero sfogo alle nostre anime. Cosa stai parlando? Diciamo. Come? Jackie Lee Hyde. Ah, Jackie Lee Hyde. Sì. Però non è che sui psichedelici. No, però lì quando c'è, non sul CD, dico live. Sì, live, sì, c'è, sì, l'intramezzo, capito. Che lì è solo live. Lì questo pezzo Coccodrillo che abbiamo sentito, che io non avevo mai sentito in questo precedentemente, a me sembrava molto ancorato con quegli schemi. Sì, lo è, però non è una nuova via. Per quanto ci riguarda, è una sfaccettatura. Una sfaccettatura delle vie precedenti. Che ogni tanto, cioè che ogni tot pezzi noi vengono fuori. Comunque riusciamo, cioè sì, più che riusciamo, pezzo. Tiriamo fuori da quello che produciamo. Certo, certo. Sono le 23 in questo momento 23:19 secondi. È l'ora del gioco. È l'ora del gioco. Visto che ti è piaciuto, ti lasciamo anche Coccodrillo. Ah, okay, e in una compilation l'abbiamo registrato. Ah, bene, bene. Sono molto contento perché il pezzo mi ha decisamente soddisfatto. Anche gli altri, ma questo in modo particolare. Mentre Alberto sta sistemando la chitarra, l'ha quasi sistemata, è tutto pronto. Facciamolo a ruota nel senso positivo del termine, cioè iniziamo il gioco. Vuoi cominciare te, Enrico? Ah, sono qua. Benissimo, allora. Allora, i 5 dischi o i 3 dischi, come vuoi, da portare su un'isola deserta. Ricordiamo l'isola di Rockwave, l'isola dei famosi, non c'entra assolutamente nulla. Ok, vai. Quindi niente cose strane, no, costumi, no, striminziti. No, assolutamente no. Peccato. No, vabbè, scherzo. Allora, ci ho pensato un attimo prima perché c'è nato il gioco e sicuramente Song for the Deaf dei Queens of the Stone Age. Quelli avevi citati precedentemente, quindi dovevano nella biografia. Esatto, cioè, chiaramente Led Zeppelin 3 o 4 come mai 3 o 4? Il 4 c'è l'immaginifico Stairway to Heaven, il 3 c'è Immigration Song. Allora, è dura decisione, insomma. Perché il numero 3 è forse il disco più folk, tra virgolette, anche se qualcuno dice il 2, però... E più ha degli arpeggi non violenti, possiamo dire. Sì. Mentre il 4 è un disco epocale. Epocale per Stairway to Heaven. È un manifesto. Quindi oltre al 4. Scegliene uno, diciamo oltre uno, il 4. Il 4, facciamo il 4, sì. Poi? E poi sicuramente un album di Nirvana. Cosa di Nirvana? Di Nirvana. Mentre Michele in sottofondo ti ha messo questo brano mitico, Stairway to Heaven. Dimmi. Sicuramente Nevermind. E come mai questo grande... Adesso l'hanno ristampato, lo sai, recentemente. Non lo sapevo. L'hanno ristampato, adesso c'è la moda di ristampare tutto quanto. Rimasterizzare. Esattamente, nella versione deluxe, tutte queste cose qua. Sì. Ma è importante perché è segnato una via Nevermind di Nirvana. Ha aperto tutto. Più che di Nirvana, della musica della in musica, generale. Sì, più che di Nirvana. Periodo, perché comunque è stato... qualcosa che ha sconvolto tutto quello che c'era prima e ha cambiato quello che c'era dopo. Cioè ha influenzato sicuramente quello che è venuto dopo. Certo. Hai detto per almeno 10 anni quello che è uscito è comunque, non dico brutta copia, però... un grandissimo pezzo che ha arrivato. Sicuramente l'influenza è stata forte, tra comunque tutto il panorama, perché il panorama grunge di quel periodo ha influenzato tutto quello che è venuto dopo. Quante volte l'abbiamo sentito questo pezzo meraviglioso? È qualcosa che mi ha convertito e sconvolto allo stesso tempo. Sai, io trovo meraviglioso anche l'unplugged che hanno fatto. Sì, loro. Sì, quello sì, anche quello ce l'ha avuto in loop non so quante volte. Esattamente, era molto molto bello, era significativo. Due grandi unplugged in quella serie, quello di Nirvana e anche quello di Eric Clapton, mi piaceva molto all'epoca. Ok, siamo a tre. Ancora okay. Due, dai. Allora, ancora due, io vengo sull'italiano. Vai sull'italiano. Sull'italiano... degli ultimi anni io vorrei citare i Ministri, perché è un gruppo, i Ministri, che un gruppo molto molto interessante, i Ministri. E adesso l'album di preciso non mi ricordo, però Fuori. No, quello non ce l'abbiamo, è un po' difficile. Però insomma, i Ministri li dobbiamo citare, sì. Esattamente. E poi mi manca il quinto, però volevo citare System of a Down perché è stato anche quello un gruppo che comunque mi ha influenzato la mia musica e come si chiama l'album? Aiuto. Quale? Il primo, il secondo, il terzo? Il secondo. Vabbè, è quello. Toxicity. Esatto, è quello. Dai che sei lungo 5. Tu. Con ma Mario tocca a te adesso. Ci stavo pensando. Perché ho letto una cosa... Tu esplori le tue cose musicalmente. Mannaggia, io ne prenderei tutti quelli dei Korn. Tutti quelli esatto, dei Deftones. Sono già più li amo. Ho letto sulla tua biografia, i Korn li amo alla sì, cioè, sì, loro li prenderei tutti, ma sono già più di 5. Uno solo dei Korn, un album dei Korn. Uno solo, mannaggia, uno solo. Quello che vuoi, dai, dei Korn. Dai, Life is Peach. Ecco, facciamo quello, dai. Poi, secondo? Ah, i Deftones. Qua, anche qui è una gara. Un altro gruppo che ami particolarmente. Uno solo dei Deftones? Sì, non puoi citarne più di uno, perché sai... Dai, facciamo Deftones. Ok, così siamo sicuri. Secondo, ok. E poi sono d'accordo con lui, con Nevermind. No, non puoi... La regola ufficiale di questo giochetto è che non si può copiare. Mannaggia. E quindi devi sull'isola ci andiamo insieme? O? Sì, potete andare insieme sull'isola. Allora se li porta lui siamo già a posto. Se li porta lui. Mannaggia. Degli altri? Beh, mica ci sono solo i Nirvana nell'ambito periodo. Ma guarda, ultimamente ti dico, ascoltavo molto... I CD degli Arsida. Il gruppo è gli Arsida. Sì. Gruppo di Daniel, il nostro produttore. Ce lo siamo ascoltati in macchina anche a venire qua. Sì. Mi dispiace, non lo conosco, però lo posso conoscere quando arriverà questo disco, non si sa mai. E quindi direi che di sicuro è uno dei gettonati che prenderei con me. Poi cosa abbiamo ancora? Ancora altri due, se ci riesci. Altri due? Sei arrivato al tre. Passiamo a qualcosa di classico. Vai, veramente classico fuori. Ma piace molto anche una qualche sinfonia di Beethoven, la prendiamo dentro. Certamente. E poi cosa abbiamo ancora? Ancora uno. Ce n'è uno in particolare che l'ho voluto disperatamente tipo 5-6 anni fa ed è stato diciamo un CD su le varie diverse opere di Bach e Beethoven suonate dagli organi presenti nel territorio del Frignano, e quello lì me lo sono ascoltato veramente. Frignano dove si trova? Cos'è il Frignano? Il Frignano è la zona dove abitiamo noi, diciamo, da partire da Maranello in su fino a cos'è, Sestola, quindi la zona dell'Appennino modenese. E suonavano l'organo praticamente. E ci sono un sacco di organi molto vecchi ristrutturati e hanno fatto diversi concerti e hanno riproposto molto. Bello, interessante qua. E direi che prenderei anche quello. Bene, bene. Una scelta. Va bene all'anima. Cioè, originale, nel senso fuori della linea solita che si può immaginare. Tocca a te, Alberto. Sì, è più difficile perché sono l'ultimo. Lo so, è più difficile. Siccome non posso copiare, tanto gli altri dischi li portano gli altri. Esatto. Ma ci sono tanti dischi da scegliere. Sì. Solo che mi devo giocare il jolly, nel senso che. Io mi porto un disco dei Nine Inch Nails. Bene. Però più che un disco mi porterei una compilation dei migliori. Bene. E così come dei President of USA. Bene, anche quello. E poi mi porterei un disco che ho sentito da poco, dei War. Un gruppo, no, un gruppo di un certo periodo degli anni 60. Sì, che ho sentito da poco, 60, con 70. Due o tre pezzi fantastici che mi farebbero compagnia sull'isola. Facciamo il rhythm blues tosto. Why Can We Be Friends? Facciamo il rhythm blues tosto di The War. Anche Soul, faccio un po' di tutto. E poi prenderei un disco dei Jamiroquai, Dynamite. Un po' funkizzato, sì, funky, sì, mica male al solito. C'è bisogno anche di queste cose. E poi chiudiamo con un disco degli Inti Illimani, perché no, con Viva Cile, che sull'isola ci vuole. Ma certo, come no. Ma c'è sicuro che andiamo sulla stessa isola però, Perché se no io rimarrò. Andiamo volentieri. Io rimango con questa roba e tanto rock me lo sono già sentito. Benissimo, 23.07, adesso sentiamo un altro pezzo da disco. Che traccia è, Michele? La traccia numero 4, ok, la sentiamo e poi ne parliamo. Capita certi giorni di avere un po' di guai, e certo non vorresti fermarti proprio mai. Capita che qualcuno ti faccia un po' di male, e nel tuo naufragare non sai più chi baciare. Capitano momenti in cui guidi contromano, solo coi tuoi ricordi ti spegni piano piano. Ma tu a chi crederai? A chi crederai? Se ci crederai, a chi crederai? Che qualcuno ti giochi un tiro strano, partendo piano piano e togliendoti di mano ciò che credevi fosse tutto il tuo futuro. Anche se sai che è duro, scavalca questo muro. Ma tu a chi crederai? A chi crederai? Ci crederai, a chi crederai? A chi crederai? A chi crederai? Non credere a niente, cancella la gente dalla tua mente. Non dare fiducia a chi finge non sia successo. so niente, cancella la gente dalla tua mente. Radio Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito che pezzo, il titolo? Vai Alberto, vai. A chi crederò? A chi crederò, che è un pezzo, una bella ballad. Era nata col punto interrogativo finale, poi l'abbiamo tolto. Ah, esattamente. Come benissimo. Poi accade nel pezzo, in pratica. È vero. È una ballad praticamente, anche se poi al finale c'è un Ibanez che proprio vedo davanti, che Mario suona, da un certo... un certo movimento al pezzo, che poi però si conclude sempre, è sempre una ballad, è nata come una ballad, sì. È un po' movimentata leggermente alla fine, ma niente di particolarmente movimentata. Una ballad ci vuole qualche volta, anzi ci vuole sempre una ballad, secondo me, non so se siete d'accordo. Sì, sì, nel disco infatti appunto ce l'abbiamo buttata, e anche perché tante volte gli amici o anche altre persone che ascoltano il disco, certi ti dicono è il mio pezzo preferito, quello, certo. Certi altri invece il preferito è quello più panchettone, più pesante che c'è. Quindi... dipende dai gusti, dai momenti, dalle sensazioni, certamente. Sì. 23:12, salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che stasera vi ha voluto qua e sono molto soddisfatto per questa sua scelta. E salutiamo anche la Nicoletta, che segue sempre il programma. Dal vivo che cosa adesso? Adesso continuiamo con un altro lento, sperando di non far addormentare. No, assolutamente. Beh, abbiamo tempo fino a mezzanotte, poi a mezzanotte riprendiamo il volo. E soprattutto quegli amici padovani che può essere che siano all'ascolto. Certamente. Ho qualche amico qua nella zona, bene. Siccome residui di università, amici che si sono laureati qua, so cosa vuol dire... quando si laureano qua a Padova fanno il macello. Fa una grande festa. Beh. Sì. Sì. Ok. Beh, facciamo un pezzo che si chiama No. Bene. Perdo la gioia del primo mattino e mi risveglio con il capochino. Non mi rilasso perché sono grande, forte, incredibilmente più potente. Ma la verità è che perdo la mia libertà. Ma la verità è che ho perduto quello che volevo, quello in cui più credevo. Ora ricordo il mio parrucchino, ero incredibilmente più carino. Apro il mio caro vecchio portafoglio, una moneta, un palloncino e un quadrifoglio. Ma la verità è che non bacio più l'ingenuità. Ma la verità è che ho perduto quello che volevo, quello in cui più credevo. Hai forse visto la mia nuova casa? Dormo sotto i cartoni delle uova. Non mi rimane che vestire Armani mentre mi sfilano il panino dalle mani. Ma la verità è che perdo la mia libertà. Ma la verità è che ho perduto quello che volevo, quello in cui più credevo. Ma la verità è che non bacio più l'ingenuità. Ma la verità è che ho perduto quello che volevo, quello in cui più credevo. Ah, ah, ah, ah. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito un pezzo che ha qualche reminiscenza blues, almeno nell'inizio, poi chiaramente le cose sono cambiate, secondo me l'ho sentito così, e poi con un testo decisamente ironico in alcuni momenti per prendere in considerazione certi luoghi comuni, vero Alberto? Sì, un testo che è nato, è un po' un testo antico, però è sempre attuale. Decisamente. È nato quando avevo 18 anni, era un no al voler crescere, cioè non voglio crescere perché perdo magari la gioia del primo mattino, perché mi sveglio col capochino, insomma è un po' un perdere la propria inventiva, più si cresce più poi ci si spegne, ed è quello che si voleva evitare in quel pezzo. E nel pezzo si racconta una vita che va avanti, guardo il mio vecchio portafoglio, i ricordi, questo e la moneta, il palloncino, ci sono vari significati importanti per me. E poi citiamo anche dei luoghi comuni. Citiamo dei luoghi comuni. Esattamente, una sterzata ai luoghi comuni. Sì, c'è stato quando abbiamo fatto il primo disco, Homo Faber. In studio ci disse: beh, non puoi. Il produttore in studio ci disse: non puoi vestire Armani e poi. Com'era? Aspetta. A me lo chiedi. L'hai scritto te il pezzo. L'hai presa la frase da là. Puoi girare col panino in mano e poi vestire Armani. Sì, esattamente. Allora devi essere un po' più coerente, diceva lui nei testi. Della fine di. Sì, era un luogo comune e generico. Certo, ce l'ho capito. Fare la fine di quello che magari gira senza soldi e poi vuol farsi vedere. Beh, sì, il significato è quello. Sì, ho capito, chiaramente. Bene, abbiamo sentito quindi un pezzo dal vivo interessante. Il live sembra una cosa fondamentale, chiaramente. Il live, quando una band suona dal vivo, secondo me, si estrinseca nella maniera più assoluta, a migliore, unica cosa da fare, per farsi conoscere, suonare in continuazione, qualsiasi parte. Le migliori band suonano meglio live che sul disco. Tu hai citato, mi pare uno di voi ha citato i Pearl Jam come punto di riferimento. I Pearl Jam dal vivo sono nella mia biografia. Esattamente, la tua biografia. I Pearl Jam dal vivo sono straordinari, c'è poco da fare, riescono a cambiare ogni volta che suonano. Personalmente anche gli AC/DC mi sono fatto gli ultimi. L'hai visti? Li hai visti l'ultimo concerto? Gli ultimi due che hanno fatto in Italia. Il disco, cosa ne pensi di quel vecchietto, per modo di dire, quello che è sempre in pantaloncini corti? Fantastico, perché non ha bisogno di mode o di maschere, perché è sempre quello. È sempre lui. Adesso i giovani devono essere indie, alternative. Cioè, è nato un nuovo termine, non so, hipster devono essere. Gli hipster sono i nuovi alternativi, quelli che vanno che ti vanno a scavare anche il pezzo che non conosci, no? Giusto per essere ganzi. Ma non serve. E non serve, perché vedi Angus sul palco che si butta per terra, su un trespolo che sale. Sono 40 mare, anni di queste robe. Sì, si butta giù, lui suona la chitarra, gira in tondo ed è fantastico. E quindi il suono è sempre quello, però tu sai che lui e quelli sono i CDC, c'è poco da fare. Sì, la potenza, l'impatto che hanno dal vivo è straordinario. Straordinario. E lui è a una certa età, non mica giovanissimo, però continua a suonare sempre nella stessa maniera. Sì. E sempre con grandissimo trasporto da parte di tutti chi l'ha visto. E gli stadi sono pieni. Poi. E gli stadi sono pieni, beh, CDC è un gruppo storico. Ok, 23:20, abbiamo ancora tempo. Dunque, abbiamo sentito un pezzo dal vivo. Facciamo un altro pezzo dal vivo, dai, ce la fate a fare un altro pezzo dal vivo? Ma sì, dai, non siamo poi così vecchi. Dai. Che cosa? Facciamo un pezzo dal primo disco che io non avevo il sentito. Il pezzo di apertura è una nostra personale visione del paradiso. Ah, ok. Empireo. Guarda, eccomi qua, una fonte di ambiguità. Guarda, onestà, qui ne trovo in quantità. Manca qualcosa e non mi scorre il sangue nelle vene. E vedo che bello è, ci sono i campi e tanti fiori colorati e... io vivo e ora sono qua e vivo anche se son di là, decido nella mia volontà e vivo, ma certo è tutto qua e... perché mi va, qui nessuno mi chiude la bocca. Piove, ma sotto me vedo il sole sorridere. Nebbia e nuvole, qui la pelle si ingrassa di brutto. Pelle che non c'è, qui non serve più facile. Sono qua e vivo anche se son di là, vi sfido nella mia volontà, vi sfido nella sua volontà e io vivo e ora sono qua e vivo anche se son di là, decido nella mia volontà e vivo, ma certo è tutto qua. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, questo era... Da qui è stato tratto un video da questo pezzo, mi pare. Bravo, volevo dirtelo. L'ho letto nella biografia. C'è anche un video abbastanza antico, arcaico, dove forse ci mancava ancora qualche barba e c'era qualche capello in più. Più lungo. Non siete mica vecchi, assolutamente. No, assolutamente. Io ho 25 anni, voglio dire, però sono il più giovane. 25 anni. Michele, lui ha 25 anni, hai capito? Quanti anni hai, Michele? Lui ha detto che ha 25 anni. Allora io sono Matusalemme praticamente. Ecco, sei una da rotamaro, praticamente. Sì, beh, siete giovani, 25 anni. Ah, ecco, esatto, sì. Quindi, sì, un video fatto alcuni tempo fa, quindi l'album del 2008, il precedente, 2007? 2006-2007 abbiamo fatto il singolo. Questo è un album ancora più vecchio, del 2004. 2004, il video di che era? Del 2004? 2005. 2005, sono... Beh, già un'idea di fare il video è già positiva all'epoca, o no? Sì, quella è stata una fortuna, proprio... è stato un video fatto... alla buona, certo. Però anche con una minima spesa, massima resa, diciamo. Bene, quello è importante. E, insomma, servito anche quello. Poi vorrei sottolineare la colorazione che fa Mario con l'Ibanez, sempre rumorista, fai una colorazione rumorista, anche questo, un pezzo, cioè un po' psichedelica, lisergica in questo pezzo, hai dato questo giro, come mai? Interessante. Mi viene così, non so, viene casinaro. Così. No, è interessante. Un casinaro. No, non è vabbè, è lui parla giustamente perché lui è di fianco a me in saletta e tutte le volte dice gira l'ampli, abbassa lì, Mario, fai del casino. Allora io ma lui è un metallaro, non penso che sia metallaro. Vabbè, io dopo un po' non l'ascolto più e vai per la tua strada. No, ma è interessante questa. È una colorazione diversa. Cioè, metti loro un pezzo, possiamo dire, non melodico, ma pseudomelodico, con questi tuoi rumori, tra virgolette, con i tuoi giri armonici. I suoi rumori anche. Rumori, tra virgolette. Dal vivo lo mettiamo anche al petofono. No, è interessante, musicalmente parlando, almeno in questa dimensione. Io la vedo così, la sento così. Noi ce lo godiamo. Ecco, mia sorella è rumorista come me, quindi anche, è contentissimo. Annalisa sbatte forte su. Sì. Decisamente. Bene, bene. Due panchettari, non panchettari, due rocchettari più che panchettari. Ma dai, alla fine siamo tutti rocchettari. Sì, un pochino a modo su, ognuno a modo su. Certo, il rock è una cosa, è una famiglia, una grande famiglia, ha tanti risvolti, ma sono tutti positivi. Rock, punk, possiamo dare tanti generi, rock e rock, c'è poco da fare. Esatto. Chiaro. Bene, 23 e 26, sentiamo un pezzo dal disco, adesso vi riposate un poco, abbiamo sentito i pezzi live. Michele, che traccia è? Ti ricordi? No, c'era un numero 7 forse. Sì, sono 7. Sì, a sorpresa di Michele. Ah, va bene, andiamo avanti con la numero 5, dai. Ok, adesso sentiamo la numero 5, la traccia numero 5 dei 7 pezzi che avete inciso nel 2010. Poi c'è qualcosa pronto per il 2012, forse. Avevi detto, Alberto. Sì, speriamo di rientrare in studio e fare qualcosa. Però di quello che abbiamo già pronto, perché ne abbiamo vari. Ne avete tanti. Questi pronti. Mesi ci siamo messi lì, ma ne abbiamo tanti. Mm. Il più lento sono io. È più lento sei Mario. Sentiamo il numero 5 allora, testa numero 5. Yeah. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Stiamo conversando con i facsimile, stiamo presentando il loro album nuovo Meglio Nudi. Questo era un pezzo molto accattivante, nel senso che fa muovere la gente. Ti piace molto, Alberto, mi dicevi a microfono spento. A me piace molto, però forse piace di più a Mario. Mario, dimmi Mario. A me piace un sacco suonare questa. Perché ti danno la libertà di andare oltre tutte le diverse barriere. Diciamo che non è proprio cominciato il giro che ci faccio all'inizio, che viene poi ripetuto per tutta la canzone. Durante il pezzo. Fa muovere la gente un pochino, li vedi saltellare a ritmo, è veramente bello. Poi dopo il ritornello è un'esplosione. E Mario si sfoga con un urlo. Esatto, di solito ci penso io. Carichi. Il ritornello do sfogo alle mie corde vocali. Bello, bello, interessante. Quindi dal vivo è una specie di jam session fatto su questo pezzo, la libertà assoluta. Sì, sì, sì, sì. Anche se dicono che, cioè, quando c'è la diversità tra i pezzi da disco e i pezzi dal vivo, di solito la gente ama sentire, non dico simili, ma leggermente uguali, molto vicini, anche se però dal vivo è difficile fare molto vicini. In linea di massima li facciamo molto simili. Molto simili. Sono poche le divagazioni. Anche perché un po' non ci piace tirarla lunga, fare un pezzo 6-7 minuti quando in realtà è 3, che dopo uno si rompe le scatole. Si stanca. E abbiamo qualche pezzo nel quale abbiamo elaborato qualcosa in più. Forse non siamo neanche capaci di stare lì a girarci troppo intorno. Esattamente. Dopo un po'. Può stancare, può anche rendere inutile la bellezza del pezzo, sì. se si allunga troppo il brodo, come si dice. Però qualche volta capita che se uno ha voglia di fare una solo va avanti, non ha barriere, vero Mario? Sì. Poi tante volte, come è successo più volte, qualche nostro amico dalla platea salta su, vuole cantare un pezzo del ritornello, magari si lancia qualche parola a cantare assieme, ovviamente il benvenuto, quindi il problema è che spesso ha la birra in mano e va a finire è lì mi arrabbio soprattutto se abbiamo il nostro impianto, che lì comincio a fumare le orecchie. L'impianto chiaramente può capitare. Però è la libertà, l'esplosione, la voglia di suonare, di sentire, di avere una comunione di intenti musicale, questo è il motivo. Ok, 23:33, abbiamo circa mezz'oretta per concludere la nostra bella cavalcata, la nostra conversazione. Ma avete un bel libro grosso voi da suonare, un sacco di pezzi. Che pezzo è che hai citato, che hai trovato adesso? Fan. Adesso abbiamo trovato Fan, è un pezzo dedicato a prende un po' in giro le fan, ma le fan in senso lato. Eravamo a un evento di beneficenza dove suonavano anche Povia, c'erano i Modà, c'erano i Lost, c'erano queste fan dei Lost dai 15 anni in giù, forse, scatenate. Dai 15 in su scatenate esattamente. Dopo, il divismo, quelle grandi ancora. Erano i 15 anni. Quelle grandi erano i 15 anni, 15 in giù infatti. Quindi erano tutti giovanissimi insomma. E da lì poi dopo vedi l'accanimento, anche nei confronti nostri, che non siamo nessuno tra virgolette, e vengono lì, chiedono autografi, fanno... Poi forse hanno preso qualche numero, Enrico, ti hanno tartassato, vero? No, no. Come no? Non è vero. Vabbè, da lì è nata... Non è vero. Sì, il là per fare questo... pezzo. Sì, hai fatto un ragionamento sulle fan, sulle allora fan. Via. Ok. E allora ve lo facciamo sentire. Certamente. Voglio diventare una fan, un fan. Voglio crescere con il mito che qualcuno è più importante di me, più di me. E niente meglio al mondo c'è, non c'è. Voglio diventare una fan, un fan. Voglio dedicare il mio tempo a te che sei più noto di me, più di me. E autografi le foto in giro a gente come me. Perché mi piaci tu. Tu voglio diventare una fan, un fan. Voglio molestare qualcuno che, qualcuno che è più in alto di me, più di me, e che mi piace solo perché sta dove. Voglio diventare una fan, un fan. Seguirti in capo al mondo perché so che tu in fondo al cuore metti anche me, anche me. E un giorno o l'altro spero che staremo insieme, sì, insieme, insieme, perché mi piaci tu. Comunque sia, l'importante è credere e non c'è spazio per la gelosia. Qualunque cosa fai devi credere, perché mi piaci, perché mi piaci, perché mi piaci, perché mi piaci tu. Voglio diventare una fan, oh fan. Voglio diventare una fan. Voglio diventare una fan. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Voglio diventare una fan. Questa fan praticamente ha ironizzato, ma hai parlato, hai descritto queste ragazzine che si sono, sono sì. Si tirano, non si strappano i capelli, no, non lo so, sicuramente no, però una volta si arrivava anche a questo. Una volta erano i Beatles e i Rolling Stones. Certo, certo. Fino ad arrivare adesso che vediamo i Lost. Ah, niente, per carità. No, per carità, davvero. Dimmi Enrico. Mi ha scritto un messaggio a Annalisa che ha detto che ci sta ascoltando. Ah, grazie. Saluta. Salutiamo Annalisa. Che bello. Bene, bene. Salutiamo. Ciao Annalisa. Ok, allora parlavamo ancora del discorso delle fan, dell'istirismo, esistono ancora purtroppo, no, purtroppo nel senso positivo, esistono. Dicevi fossero. Prima il divismo proprio. Il divismo esiste ancora. Questo tema, delle volte è l'eccesso portato nel voler imitare, nel voler fare, il nostro stesso nome, facsimile, certo. ha due significati, cioè da una parte... vuole dire prendi dagli altri, sei un po' un facsimile degli altri, tu nasci come facsimile, prendi dagli altri tutto quello che ti piace e lo rendi tuo, ma rendendolo tuo poi tu diventi a tua volta una persona unica. E quindi dall'altro lato il nome facsimile vuole essere un po' mandare a quel paese, detta all'inglese fac simile, sì, sì, esattamente. Mandare a quel paese l'omologazione, il fatto di copiare, di essere a di essere, sì, carta, cioè, seguire l'onda, seguire le, sì, masse, copiare all'inverosimile continuamente, copia su copia, eccetera, eccetera, esatto, eccetera. Sì, sono d'accordo con te. E poi un'altra cosa che volevo chiedervi è questa: sì, voi avete suonato, avete aperto i concerti del Nucleo, dei Lost, dei Modà, o appunto eravate presenti alla manifestazione, e avete aperto anche i concerti di Omar Pedrini. Che cos'è, come personaggio, come Omar Pedrini, ex Timori, ex leader dei Timori? Simpatico. Simpaticissimo. Allora, sì. Simpatico personaggio. Sta facendo una bella trasmissione a Rai 5, mi pare adesso, parla dei gruppi rock. Sì, beh, Timori era un gruppo storico italiano. Ah, sicuramente disponibile, è stato fantastico, sì, è stato... Sì, anche dopo fare le foto dietro tranquillamente senza problemi, sono, cioè, belli non così, l'artista che prende, va dietro, se la tira, è quello il discorso, molto alla artista. Mano comunque, esatto, alla mano, l'artista era quello. Secondo me, se un artista è artista, deve essere artista anche in questo, cioè sì, essere alla mano, anche se bravo, sei famoso, tutto quello che vuoi, però se un musicista emergente viene a suonare con te, perché no? Beh, certo. Il coro che è arrivato dopo con la birra, abbiamo fatto un bel brindisi e lui al rock. Tranquillo. Esatto, rock. È un rocchettaro convinto. Sì. Bene, interessante. Avete parlavamo di concerti. Di solito cosa sentite quando suonate dal vivo davanti al pubblico? Che emozione provate praticamente? Parto io. Vai Mario. Dai. Soprattutto in questo momento che non sono presente, nel senso vivendo all'estero. Che sei lontano, e in Svizzera. Giustamente ogni tanto facciamo le prove per i concerti, è veramente bello. Di cioè, tornare. Quando secondo me non si apprezza così tanto quanto prima, cioè prima essendo sempre con loro, magari ci sono quelle volte che si suona live, ok, è sempre bello, però... Non riesci veramente a cogliere l'essenza. Adesso che diciamo che mi manca, perché è vero, quando torno e si suona live è veramente, per me è fantastico. Io potrei zero prove, vengo giù, via, mi lancio sul palco. Tu dicevi che prima, quindi eravate sempre insieme, quindi c'è una specie di abitudine positiva, ma una specie di abitudine. Sì, magari uno ci potrebbe fare tra virgolette l'abitudine, esatto, però okay, non è mai una vera abitudine, però adesso a maggior ragione io lo sento veramente quando salgo sul palco, diciamo quell'emozione, un po' il leggero magone, poi dopo la voglia veramente di suonare di nuovo. Tu che vieni tanto da lontano, quando cominci, quando sei fa parte dei quattro, cominci, ti dai proprio liberi totalmente. Poi la cosa stupenda che ho visto è E che tutte le volte che suoniamo assieme, specialmente adesso, come prima, nel senso sul palco io lo conosco lui, conosco mia sorella, quel momento lì. Basta, so quello momento che fanno, ed è sempre così, cioè, nel senso ci leggiamo tra di noi automaticamente, basta uno sguardo. Esatto, basta uno sguardo, hai detto una e cosa sai già cosa succede, cosa vuol dire, è tutto. È vero, spesso volentieri succede, spesso anche qua quando vengono a suonare la band, basta uno sguardo, cioè mi sono d'accordo, un secondo, hanno già capito come fare, come avete fatto voi stasera. È un'alchimia che esattamente acquisti nel corso del tempo, è fondamentale, soprattutto se sei amico di base. Da una vita. Non avevamo ancora, siamo quattro fratelli, ha detto Alberto nella biografia, spulciato nella biografia, sono quattro fratelli, è così, vero? Alla fine della storia è così. E poi il bello è proprio l'adrenalina che hai in certi momenti quando sei sul palco, e soprattutto anche quando senti che chi ti ascolta gradisce, risponde, quello è proprio il momento più bello. La risposta dai anche il meglio di te, quando vedi che dai proprio il meglio di te, sì. È il tuo pane. Certo, certo. Nel disco oltre a voi, chi ha suonato? Vi ricordate? Vogliamo ricordare? Certo, tutti quanti se riuscite. Massimo Masetti, il nostro amico pianista, bravissimo delle nostre zone, che ha dato un contributo nel pezzo Jekyll e Hyde, alla fine che sentiremo. Che alla fine poi sentiremo fra poco. Fra poco. E poi abbiamo un contributo al violino. Il violinista che abbiamo sentito prima, ti ricordi? Sì, cioè l'abbiamo sentito il violinista. Non mi ricordo il nome. Il nome, non te lo ricordo. Perché io non l'ho mai visto, ce lo conosciamo da una vita. Aspetta, scusa, lui mi chiede a me, però io non l'ho mai visto, l'ha visto lui. Hai visto solo io l'ho visto. Confermo. Molto bravo, hai fatto qualcosa del genere? Mi sfugge perché praticamente lo conosce bene Daniel. Ho capito. E poi io l'ho visto due volte e... Non so se si è citato, non so se si è citato. Questa è veramente una cosa. Non ricordarsi, sì, è citato. È citato nel libretto. C'è il libretto qua. Esattamente, però bisogna dire che dato un bel contributo al pezzo, alla cosiddetta ballad. Sì. Bella, interessante. Diciamo il nome. Sì, il nome. Ce l'hai lì. No, è l'altra parte. Di là, niente. Dopo lo citiamo. Adesso Mario apre il CD, ecco, lo puoi aprire così lo citiamo più tardi. Benissimo, sono le 23:44. Dimmi. Tra l'altro ha anche suonato Daniel. Sì, indirettamente. Daniel. Nel senso, mi ricordo troppo. Dunque, qual era? Era, secondo me, era a chi crederò. No, questo è un attimo un inciso che mi ha fatto troppo piacere. A chi crederò là solo. Mi ricordo che Daniel, lui diciamo che giocava con il Wawa. Sì, esatto. Quei pedali. Abbiamo rifatto quella solo lì almeno una ventina di volte, perché continuavo a giocare e non gli piaceva. Dai, lo faccio io. No, lo voglio fare io. E si è messo lì per terra in ginocchio mentre suonavo lui questo Wawa ad ascoltare. Si tirava su, no, fa schifo. Tac, ripetiamo. E poi continuava, è stato fantastico. Finché ha trovato il momento giusto. Sì. Si è riuscito a farlo. Ok, abbiamo ancora quante tracce, Michele, dal disco? Due. Ancora due. Allora, traccia numero 6 sentiamo adesso, mi pare, vero? Il manifesto del disco. Esatto. Nudo o vestito? Esattamente. Ok. (Susurra) se me la dà, scivola, mormora, muoviti e vedrai che ti guarderà. Come sa, come fa, come niente è stato mai. Scivola, mormora, muoviti e vedrai che ti guarderà, ti guarderà. Come sa, come fa, come niente è stato mai. Scivola, mormora, muoviti e vedrai che ti guarderà, ti guarderà. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ci siamo quasi, non abbiamo ancora finito, abbiamo circa 10 minuti per finire questa cavalcata con i facsimile. Abbiamo presentato Meglio Nudi, difatti là è una proprio una dichiarazione di intenti, meglio nudi che vestiti, cioè meglio sinceri che non con infrastrutture o altre cose, vero Alberto? Sì, è proprio così. C'è chi cerca un bel vestito che gli copra l'anima, è proprio il la frase un po'. Sì, non serve il bel vestito quando sì. Sì, cioè l'anima deve venire fuori con me. Esatto. Il vestito non serve a niente, assolutamente. Certo. È quella l'idea. Benissimo, 23:50 quasi. Adesso terminiamo con il pezzo che chiude l'album, che come diceva Mario un po' di minuti fa, è un pezzo un po' particolare, ha qualche variazione sul tema, sempre restando tenendo conto della strada che state percorrendo, però qualche bella, qualche esperimento tra virgolette si può sì. Anche esserci sì, in questo pezzo, vero Mario? Sì, sì, sì, no, sicuramente è quella un pochino più particolare, ma il tocco, la pennellata viene solo live, se devo essere sincero. Ah, ho capito che abbiamo detto prima. Ci lasciamo che un po' andare. Accentuiamo, cioè allarghiamo gli orizzonti. Esatto, però sì, comunque è un pezzo veramente bello, particolare. Ok, lo sentiamo e poi facciamo i saluti e suoniamo l'ultimo pezzo dal vivo. Crazy. che c'è di bene in ogni seme. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Dai furori del rock a una chiusura quasi classica. Abbiamo voluto esagerare, metterci un po' di tutto. Questa era la chiusura, il contributo di Massimo Masetti, il pianista. Cogliamo l'occasione anche per ringraziare Andrea Bandi, che ha suonato il violino elettrico nel pezzo numero 4. Sì, a chi crederò? Ha usato il violino elettrico, sì. Si svelano molte cose. Non c'era quella volta lì. Vabbè. Ok, abbiamo finito, ragazzi. 23:55. Adesso dobbiamo dire dove possiamo appunto fisicamente trovare il vostro disco. Tutti i vostri portali, cioè, il vostro sito praticamente. Io parlo del fisico. Fisicamente lo trovate. Ci sono diversi punti vendita nella nostra zona, come detto, Modena, Reggio Emilia, Bologna. Li potete andare a spulciare anche dal nostro da internet, comunque dalla pagina Facebook. E lo trovate anche il disco distribuito in digitale, meglio nudi, facsimile, basta cercarlo nei principali store digitali. Cosa devo fare? Cosa devi fare? Il nostro sito? Il nostro sito facsimile.net, poi da lì ci sono una serie di link che rimandano le varie pagine su MySpace, Reverb Nation, Facebook, così semplifichiamo, SoundCloud, dove è possibile ascoltare il disco più altre cose vecchie. Poi che altro? Il blog di Mario, WordPress. Esatto, blog tuo WordPress. Mario, perfetto. E dobbiamo sottolineare che la copertina l'hai fatta a te. Grazie. Sì. È molto interessante, molto carina. Sono Enrico. Enrico, molto carina, molto interessante, molto vivace, possiamo dire questo. Sì, dopo le varie proposte, mettendo d'accordo tutti, varie litigate. Vabbè, chiaro, perché se non c'è un po' di scontro non si va da nessuna parte. Enrico, Alberto, Mario e Annalisa, che salutiamo, i facsimile, stasera hanno presentato Meglio Nudi. E assolutamente una bella cavalcata fino a mezzanotte manca qualche minuto, e per salutare i nostri ascoltatori e augurare buon anno, un buon 2012, con cosa? Chiudiamo con un pezzo proprio tratto da Meglio Nudi, Io sono una regina. Perfetto, grazie a Michele Toson, buonanotte a tutti e buon anno, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ascoltala, prendila, guidala, ascoltala, prendila, guidala, finanziala. Lei è così, portami, prendimi, disprezzami. che se disprezzi poi mi compri, e noi facciamo dopo i conti. Aspettami, attendimi, fremi un po', pazienta un po'. Entriamo dai, tu che fai non lo sai. Entriamo dai, tu che fai non lo sai. Vieni da me, entriamo dai, tu che fai non lo sai, oh. Prendi la tua roba, esci fuori figlio di puttana. La mia casa è nuova, non lo vedi, guarda la pedana. E tutte quelle volte che non pensi a me, io sono una regina ma tu non sei il mio re. Ed è così, loro sì, son così adorabili. Come si può vivere pensando di stare al gioco delle parti senza pagare neanche un po', un briciolo? Un briciolo me ne è rimasta, la voglia è troppa di incontrarla. Aspetto un po', studio un po', aspetto un po'. Aspetto un po', studio un po', aspetto un po'. Regalo, regalo, cosa avrò, cosa avrò, cosa avrò. Prendi la tua roba, esci fuori figlio di puttana. La mia casa è nuova, non lo vedi, guarda la pedana. E tutte quelle volte che non pensi a me, io sono una regina ma tu non sei il mio re. Tua roba, esci fuori figlio di puttana. La mia casa è nuova, non lo vedi, guarda la pedana. E tutte quelle volte che non pensi a me, io sono una regina ma tu non sei il mio re. Prendi la tua roba, esci fuori figlio di puttana. La mia casa è nuova, non lo vedi, guarda la pedana. E tutte quelle volte che non pensi a me, io sono una regina ma tu non sei il mio re. Blue Radio Veneto. Blue Radio.